Ben ritrovati per una nuova puntata di Coccoli al Silicio, la 51esima puntata. Inizio con un'ora e 20, quasi un'ora e mezza di ritardo sul mio orario solito, che a questo punto penso che cambierò, visto che non riesco mai a iniziare all'ora giusta. Comunque ho fiducia che in realtà pochissima gente mi segua nella diretta del lunedì, ma più gente mi ascolti nel podcast, anche perché appunto l'orario è abbastanza variabile, e quindi anche se vorreste ascoltarmi io non arrivo mai alla stessa ora come fate, e non è possibile. E anche oggi volevo aprire, come di consueto, con il breve report di quello che accade in quel dell'E-Club IFDU di Firenze. In particolare, volevo rendervi edotti e edotte che abbiamo iniziato queste chiacchierate sul reversing. La prima è stata mercoledì scorso, la prossima sarà non questo mercoledì ma quello successivo. Il numero potrebbe essere utile, che in effetti questo e il prossimo non sono tanto esplicativi. La prossima chiacchierata sarà mercoledì 16 ottobre. Diciamo, la prima puntata è andata abbastanza bene, nonostante io, come forse si sentirà dalla voce e da questo mio schiarirmi la gola, e sono malato praticamente dalla scorsa settimana, quindi in realtà il corso forse è stato meno frizzante di quanto avrei voluto, nel senso che non ho retto oltre la chiacchierata. La parte di laboratorio a sto giro l'abbiamo saltata. Forse è andato bene anche così, per non ammazzare subito insomma, i volenterosi e le volenterose partecipanti, perché insomma forse poteva essere anche un po' faticoso tutta quella roba così di botto. E quindi niente, penso che mercoledì prossimo in realtà ci dedicheremo quasi totalmente al laboratorio, cioè chiacchiero meno e provo a far fare cose in modo che magari si capisca un po' meglio quello che abbiamo provato a spiegare nella prima puntata. E quindi tant'è per chi vorrà esserci. E invece per questa settimana, sabato 12 alle 15 del pomeriggio, in quel del Next Emerson ci sarà una sessione dedicata allo script in Bash. La Bash è una shell, sarebbe quella cosa con cui vi confrontate quando aprite il terminale sui vostri computer con sopra Linux. Cioè potete trovare anche altre shell, ma tipicamente trovate questa, la Bash. Ebbene, questa shell ha in realtà delle potenzialità da linguaggio di programmazione, e quindi abbiamo invitato un amico sentite la voce proprio, non ce la faccio oggi. Un amico dell'E-Club romano di Havana, e con lui svilupperemo un pochino la programmazione in Bash, appunto. E questo avverrà sabato 12 dalle 15 in quel del Next Emerson. Maggiori informazioni le trovate sempre sul blog ifdu.onoblogs.org, e quindi niente, vi invito a guardare un pochino per capire meglio che cavolo facciamo, se siete interessati. E con questo vi lascio anche a un po' di musica, perché devo bere un po' di acqua, così magari riesco a arrivare anche cioè, resisto ancora per i prossimi 5 mi minuti di trasmissione. Poi un altro bicchiere d'acqua, 5 minuti, e andando avanti di 5 minuti in 5 minuti arrivo forse anche alla fine. Ora vorrei tornare un pochino a parlare di una cosa che avevo già accennato tempo fa, perché tempo fa, per puro caso, ero capitato su questo articoletto che parlava del DNS over HTTPS. E io nella mia ignoranza ho detto, oh, guarda che hanno pensato a delle cose per, diciamo, rendere più conforme a un'idea di riservatezza e insomma meno manipolabile il protocollo DNS, che per ora era sostanzialmente un protocollo totalmente in chiaro, facilmente hijackabile e diciamo facilmente sfruttabile per attacchi di vario tipo. E tra queste cose, appunto, avevo scoperto questo, per mia ignoranza, per carità, esisteva già da un sacco, questo DHCP over HTTPS, che ora un po' tutti i browser hanno realizzato. Poi parlando con qualcuno dell'HackLab, un paio di settimane fa, forse la scorsa, non mi ricordo, mi è stato detto, ah, ma io uso DNS Crypt, e io ho detto, ah, forte DNS Crypt, e sono andato a guardare un pochino meglio che cosa faceva DNS Crypt, che avevo sentito ma non avevo mai approfondito. Ebbene, DNS Crypt è una sorta di standard, cioè è uno standard che però non è stato sottoposto a in normale diciamo al normale ciclo di vita di uno standard internettoso. Semplicemente un po' di gente se l'è inventato e delle aziende grosse l'hanno poi adottato. In particolare l'ha adottato OpenDNS, che è un'azienda che fa capo a Cisco e che offre un servizio di DNS, ed è un'estensione per cifrare il protocollo, appunto, il protocollo DNS. E quindi fa una cosa sostanzialmente del tutto simile a il DNS over HTTPS, però in una maniera un poco diversa. Se volete provarlo, in realtà è interessante perché i client DNS Crypt nella sua versione più moderna in realtà supporta entrambi i protocolli, quindi in maniera abbastanza trasparente vi fa utilizzare o l'uno o l'altro e quindi tendenzialmente diciamo utilizzandolo potete fruire di entrambi questi meccanismi. Perché sceglierne uno piuttosto che un altro non saprei, nel senso che per ragioni di performance pare che DNS Crypt sia più veloce, invece DNS over HTTPS sia un po' più complesso, cioè sia più, però non saprei fornire una spiegazione di perché dovrebbe esserlo. E una cosa che li accomuna è che comunque entrambi viaggiano su la porta 443, quella dell'HTTPS normale, solo che il primo effettivamente, cioè il secondo di DNS over HTTPS utilizza effettivamente il protocollo HTTPS, mentre invece il primo ha un protocollo diverso, sempre pubblico, nel senso che il codice di questo oggetto è pubblico, però non utilizza un protocollo, diciamo, non utilizza un substrato TLS sulla richiesta DNS. Viaggia su quella porta, ma quello che vedete non è traffico interpretabile come HTTPS. E quindi, che ne so, se lo passate dentro Wireshark o dentro uno sniffer, voi non vedete, vedete il traffico cifrato, ma non vedete il traffico HTTPS. E a parte questo, non vi saprei dire per quale motivo scegliere uno piuttosto che un altro, fate un po' voi. Diciamo, la cosa comoda rispetto alla soluzione che avevo proposto io l'altra volta, per mia ignoranza sempre, che era semplicemente quello di usare il vostro browser e andare a cercarvi le impostazioni e poi selezionare DNS over HTTPS come resolver. E ecco, con una soluzione più tipo DNS Crypt, voi risolvete questo problema per tutto quello che fate sul computer, quindi non soltanto quello che esce dal vostro browser. E quindi tendenzialmente è una soluzione più completa. E facendo questa cosa mi sono trovato appunto a discutere sul fatto che allora che fa DNS Sec? Cioè, perché tutte queste cose tendenzialmente servono tutte a rendere sicuro, a rendere un po' meglio il protocollo DNS? Ecco, perché DNS Sec Che è un altro standard, questo invece è internettoso, cioè quello che ha fatto la trafila per diventare uno standard, fa una roba che questi non fanno, quindi è complementare. Nel senso che questi cifrano, ma non autenticano. Cioè voi non siete sicuri che quello che andate a visitare sia veramente, cioè chi vi risponde sia veramente uno che ha titolo di rispondere. E i singoli pezzi che costituiscono il vostro dominio non sono autenticati. E DNSSEC nasce invece per questo, nasce esattamente per questo. Per capire un po' come funziona, bisogna ripensare a come funziona il DNS, cioè che è una struttura gerarchica. Voi quando scrivete il nome, tendenzialmente, a meno che non lo chiappate da una cache, vi rifate, iniziate a risolverlo, no? Andate a vedere se avete scritto, che ne so, www.qualcosa.org, andate a vedere il .org, andate a vedere qualcosa e poi andate a vedere www. Ognuna di queste parti fa capo a un'entità diversa, la più grande e il .org, e i più grandi di tutti sono questi root server che gestiscono appunto .org, .com, .it, e quelli sanno tutto, cioè sanno tutto, sanno dove andare a chiedere le altre informazioni. Ecco, l'autenticazione nel DNSSEC funziona esattamente così, cioè voi quando partite a risolvere un pezzettino, ad esempio il vostro www, insieme al www viaggia anche una firma insieme alla richiesta DNS, che per il solo DNSSEC, comunque per retrocompatibilità, viaggia comunque in chiaro. Cioè se usate solo DNSSEC non avete risolto il problema del fatto che il traffico DNS è in chiaro. Però insieme a www viaggia anche una firma. Che firma questo www? E chi mi garantisce questa firma? Me lo garantisce il passo successivo, cioè quello che in qualche modo sta sopra, quindi il nostro www.qualcosa.org, me lo garantisce il pezzettino che gestisce qualcosa. Anche questo qualcosa però viaggia con una firma che in qualche modo dovrebbe garantire la veridicità di questa roba. E chi la garantisce quella? La garantisce a livello ancora superiore, cioè il .org. E poi anche il .org viaggia con una firma. Chi garantisce la firma del .org? La garantisce il root server. Quindi alla fine tutta questa catena si basa, come è la classica catena della fiducia, no? In questa catena della fiducia, che è quella che poi sta alla base di tutto il principio, anche, che ne so, delle certification authority che noi utilizziamo ad esempio per il traffico HTTPS. Ecco, e in cima a tutto questo appunto ci sta qualcuno che garantisce per tutti quelli sotto. In questa struttura gerarchica il mio traffico, diciamo, DNS viene quindi in qualche modo garantito, per cui l'ultimo garantisce quello prima, quello prima, quello prima, e io costruisco una catena per cui mi posso fidare che quella particolare query DNS pertiene veramente a qualcuno che ha titolo per quel dominio. E quindi non mi stanno ingannando dicendomi che una cosa corrisponde a un'altra. E diciamo, questo era un pochino per riprendere il filo del discorso su questa base di DNS, e anche se sono malato e quindi avrò fatto un casino fatica a spiegarvi queste cose, spiegare un pochino come funziona questo giochino, darvi alcuni nomi che poi volete approfondire per i fatti vostri e cercare di collocare in un dominio di comprensione queste cose strane e buffe. E con questo anche mi stop per non incasinare successivamente. Metterò magari tre link per non incasinare, sì, continuando a parlare. Vi metterò anche tre link sul blog a queste tre cose strambe, in modo che magari se uno è curioso può andarsene a riguardare e cercare diciamo di riagguantarsela in questo panorama che comunque è un po' complesso. Cioè se esiste ad esempio un pro un Una versione di una particolare implementazione di DNSSEC, no? Per Bind, che è un server di DNS famoso, no? Uno di quelli che trovate anche nelle vostre distro Linux, che hanno definito DNSSEC for Humans proprio perché inizialmente diciamo, la configurazione di una zona diciamo, di un server DNS che gestisse il DNSSEC era piuttosto laboriosa, e si sono resi conto che effettivamente era molto poco umano come approccio, e che la gente non lo faceva. Infatti, poi, pochissimi, cioè una piccola percentuale di tutti i domini che avete in realtà attualmente utilizza le future che possono essere, cioè questa future queste future del DNS, di DNSSEC. Quindi nell'ottica di renderlo più semplice hanno fatto anche questo sforzo. No, questo era solo per dirvi che se poi non ci si capisce niente, cioè c'è un motivo, è perché effettivamente è tutto un pochino ancora contorto. E non penso che diciamo, sarò riuscito a chiarirvi troppo le idee. Spero però di aver buttato lì quattro cose che magari uno ne chiappa la metà e già gli basta per riuscire a approfondire poi fare i fatti propri il tutto. E quindi un altro po' di musica, un altro bicchiere d'acqua e poi delle news, spero un po' più meno confuse, che mi riescano meno confuse di questa qua. Il prossimo argomento di cui volevo parlarvi riguardano in realtà i prossimi due, riguardano entrambi Android. Sono uscite infatti un po' di vulnerabilità per questo sistema operativo che sta poi su tutti gli smartphone che non sono sostanzialmente o Apple oppure robe che montano sistema operativo della Microsoft. Più o meno abbiamo anche finito tutti i sistemi operativi che si diffondono su questi oggetti, che si montano su questi oggetti. Cioè, ce ne sono anche alcuni più esoterici, però tendenzialmente questi sono quelli tre quelli mainstream, sicuramente capitati in uno di questi casi. Ecco, oggi parliamo solo di Android. È uscito ad opera del Project Zero di Google una notizia che hanno intercettato, sbirciando il traffico come fanno loro, un nuovo exploit che pare essere rilasciato dall'NSO Group israeliano, un'azienda che è stata sostanzialmente ideata da un ex componente della Unit 8200, che sarebbe l'intelligence cybernettosa dei servizi israeliani. Ecco, un ex dipendente si è creato questa aziendina che poi in questi anni è stata al centro di diverse dibattite e di discussioni su quanto insomma siano immanicati con più o meno governi anche abbastanza loschi. Ecco, e pare che appunto questo nuovo bug fosse stato utilizzato, come si dice in the wild, cioè è stato utilizzato dal vivo. L'hanno trovato, diciamo, nel traffico che hanno intercettato in qualche modo da questo NSO Group. Non è molto ben chiaro cioè in quale situazione questa cosa sia stata identificata, però così riportano questi di Project Zero. E c'è da rilevare anche come questo progetto praticamente ormai si sia costruito un'immagine di paladini della sicurezza etica e buona in rete. È stata molto avveduta in qualche modo Google nel creare un gruppo di questo tipo. C'è stata un'operazione di immagine veramente ottima, tra l'altro, cioè ottima nel senso che sono stati veramente non saprei come definirla, cioè da un punto di vista del marketing è stato veramente lungimirante, non c'è ammirazione in questa cosa che vi sto dicendo, c'è più una constatazione che sono dei maledetti scaltri, però sostanzialmente si candidano appunto a difesa del web, cioè è molto particolare questa dialettica, no? Perché da un lato vengono multati dai governi perché esercitano un forte monopolio, dall'altra parte però sono anche i paladini in qualche modo della difesa della rete contro quei gruppi che tipo l'NSO, che ad esempio dotano i governi di quelle cose che poi gli altri utilizzano per spiare i cittadini, e quindi diventa tutto una roba molto complessa, perché d'altra parte anche Google prende i nostri dati in qualche modo per farne una forma di spionaggio un po' più legato però diciamo, allo sfruttamento commerciale del nostro traffico. Gli altri invece ne fanno più una roba di ordine pubblico o di sicurezza interna, però ecco, siamo ben incastrati, cioè non si sa da che parte battere la testa. Forte nel muro, comunque, tendenzialmente, se dovete. Dunque, questo Explorer in realtà era abbastanza insidioso, perché risiede nel kernel di Linux, è una use after free, che in altre puntate abbiamo spiegato anche, ci siamo arrampicati sugli specchi a spiegare più o meno che cos'era una use after free. Non lo rispiego questa sera perché appunto non sono fisicamente in grado di fare quest'opera, e magari visto che anche nell'argomento di cui parleremo dopo si parla di una roba che ha a che fare con quest'operazione, la free. Dedicheremo magari una delle prossime puntate a spiegare proprio questi due termini un pochino, se mi riesce. Comunque questo exploit permette sostanzialmente un'escalation di privilegi, e quindi si parte dallo schifo schifo e si arriva a ruttare il telefono sostanzialmente. È una roba abbastanza insidiosa perché appunto risiedendo nel kernel in qualche modo è una funzionalità che per nella catena che contraddistingue più o meno la costruzione dei sistemi operativi moderni, se io da user space sono in grado di interagire con qualcosa che sta nel kernel e il mio input parte dallo user space e arriva fino al kernel, io sono in grado, partendo dal user space, di andare a eseguire codice poi in modalità kernel, quindi in una modalità privilegiata, da qui l'escalation dei privilegi. E questa roba pare fattibile, pare addirittura che questo particolare, cioè diciamo che questa particolare vulnerabilità sia accessibile anche dall'interno della Chrome Sandbox. Quindi anche se mascherati dentro la sandbox di Chrome, che dovrebbe tutelarmi, io sono in grado in qualche modo di invocarla e quindi di effettuare un'escalation di privilegi dall'interno della sandbox. E questo è brutto, anche se non ne capite completamente il senso, ma pare essere una cosa brutta. E questo è quanto e c'è anche un lungo elenco di sistemi probabilmente vulnerabili, cioè di versioni e di telefonini vulnerabili, quindi diciamo di particolari versioni di Android legate a qualche particolare produttore. Qua ne cita tanti, la Samsung, Xiaomi, Pixel, Huawei, insomma ne cita un pochino di quelle grosse famose, e niente, tant'è, tra qualche tempo forse verrà rilasciato anche il proof of concept completo, credo, mi sembra di aver letto nell'articolo che stiano aspettando, perché hanno una specie di policy sul rilascio di questo tipo di cose dopo aver avvisato la corrispondente, insomma rimane un po' tutto in famiglia comunque qua. E vabbè, e quindi tant'è. Il prossimo argomento di cui volevo parlare riguarda sempre un problema su Android. Questo invece è legato all'esecuzione di codice, questo non in ambiente privilegiato, comunque già abbastanza bruttarello anche questo, sfruttando un bug che sta nella libreria che genera le preview della library di WhatsApp. Quindi tendenzialmente mandando una GIF formata male, cioè fatta male in un certo modo preciso, non fatta male a caso, è possibile che nel momento in cui questa GIF viene ricevuta, salvata, e poi nel momento in cui io voglio ad esempio andare a inviare a un amico un'altra immagine, che tendenzialmente è un'operazione comune, e visualizzo la gallery che mi mostra le immagini per sceglierla, ecco, in quel momento, zac, viene eseguito il codice nascosto nell'immagine fatta male. Questo bug sfrutta un tipo di vulnerabilità un po' diversa da quell'altra, ma riguarda sempre la zona dell'OIP e della memoria. È una double free. Sono due bug un pochino diversi, appunto, ma ve li spiegherò una volta che sono in grado di intendere e di volere più di oggi. E quindi niente, se avete dei sistemi operativi Android e usate WhatsApp, che ne so, fate quelle cose tipo aggiornare. Poi a me non mi frega nulla, io ve le racconto così per amore di per chiacchiera, così, per amore di dissertazione, ecco. E vi lascio un altro po' di musica perché sento che la voce cala, cala, cala. E quindi la prossima notizia, che chiude probabilmente anche la mia puntata di oggi, sarà una roba un po' più discorsiva, perché appunto di robe tecniche alle 11:20 di sera, con il mal di gola e non capendo niente, secondo me sto a posto così. Questa notizia invece torniamo a Firenze. Infatti abbiamo ricevuto abbastanza di recente, qualche giorno fa, la visita di Tim Cook, l'attuale santone della Apple dopo la dipartita di Steve Jobs e il CEO di Apple, che si è pregiato di effettuare una specie di lezione a degli studenti, e ha rilasciato alcune dichiarazioni abbastanza buffe, e dai giornali è piaciuto, sui giornali italiani dicono: ah, non le manda certo a dire questo qua, e ha detto tutte cose interessanti. Alcune ora ve le leggo. Ad esempio, ci sono dei virgolettati che non ho preso da giornali sulla cronaca di Firenze, però non si capiva niente. C'erano alcuni che avevano delle traduzioni veramente imbarazzanti. Questa la prendo dal Messaggero di Roma, che però almeno sembravano almeno messi in italiano corretto. E lui, l'articolo del Messaggero apre con questa citazione: smettetela di passare le vostre giornate sui social network, non vi renderanno persone migliori. E questo è cioè, bam, apre così. E poi continua: se guardate il vostro smartphone più di quanto guardate qualcuno negli occhi, state sbagliando. Noi produciamo strumenti per dare alle persone la possibilità di realizzare i propri sogni e le proprie ambizioni, perché pensiamo che attraverso quegli strumenti un amante della musica possa diventare il nuovo Mozart e un pittore possa essere il nuovo Picasso. Non vogliamo indurre le persone a passare il proprio tempo sullo smartphone. E se abbiamo fatto questo, abbiamo sbagliato. Ecco, zac. E poi che altro dice? Poi allora, parlando appunto dei social network, si lancia un casino, e in particolare ce l'ha critico nei confronti dei social network. Sarà, io lo butto lì, forse perché Apple un social network non ce l'ha, e E dice appunto, riguardo palesemente a Facebook, dico, ecco, le aziende non sono elette democraticamente, perciò non dovrebbero sostituirsi allo Stato, non dovrebbero avere un esercito né creare una propria valuta. Zuck, anche questa. Un'azienda tecnologica dovrebbe creare prodotti per i clienti, non trasformare in prodotti i clienti stessi vendendo i loro dati personali o sfruttandoli per fare profitti. E poi continua con diverse altre robe, in particolare si lancia contro le fake news, che sono per lui una vera e propria piaga, tanto che dice che appunto dovremmo lavorare su la capacità, la costruzione di un'intelligenza critica nei nostri giovani perché sappiano distinguere tra, diciamo, tra la verità e la non ve la verità quando leggono il giornale. Io che sono andato a scuola dai salesiani, a me i salesiani mi dicevano la stessa identica cosa, giuro, di questa roba qua. Dicevano no, perché se te leggi un solo giornale, te ne devi leggere almeno 10 di giornali diversi di testate per riuscire a capire la notizia, perché da ognuno ricavi la propria interpretazione, la levi nella media di quello che hai letto, capisci più o meno le cose. E no, era per dire che non è che costi molto dire questo, si può anche essere un timorato di Dio e comunque dire le stesse identiche cose. E si lancia poi nella difesa dell'ambiente, perché è una roba che va forte, anche perché sennò poi Greta gli fa il culo. E su questo dice: per noi il rispetto dell'ambiente è prioritario. L'Apple utilizza energia rinnovabile al 100%. Non credete a chi vi dice che il cambiamento climatico non esiste. Chi vive in zone colpite da uragani e alluvioni lo tocca con mano. Ecco, capito? E poi appunto si lancia nel dire no, perché noi controlliamo la filiera di tutti i prodotti, in particolare che ne so, abbiamo controllato la filiera del cobalto e se i fornitori sgarrano noi zacche, non li pigliamo più le robe da loro e tutte queste cose qui. E così. Poi parla anche di immigrazione perché comunque anche negli Stati Uniti è un dibattito aperto. E dice: come azienda crediamo nell'immigrazione come risorsa. I paesi ricchi hanno la responsabilità di aiutare chi fugge da situazioni di difficoltà. Già. E poi insomma su cose di questo tipo. Addirittura si lancia contro, in particolare si arrabbia. Questo è un vecchio cavallo di battaglia della Apple, già di Steve Jobs, che quando aveva lanciato le proprie campagne c'era quel video storico che sembrava preso da un video di un po' di propaganda anni 20 e che doveva essere appunto una roba su spezzare le catene del totalitarismo, delle robe un po' così, e cioè aveva un'immagine più che anni 20, più anni 40, in effetti, cioè sembrava riprendere quell'immaginario da paese totalitario tipo nazismo o oscuro stalinismo, cose del genere. Poi c'era questo che zà, rompeva le catene. Era un video molto famoso della pubblicità della Apple, che erano praticamente degli show, le presentazioni delle pubblicità della Apple, delle grandi performance con Steve Jobs come protagonista. E anche lui si lancia appunto su questa roba e dice: se pensiamo di vivere sotto sorveglianza nel tempo, finiremo per cambiare comportamento, autolimitandoci e riducendo man mano la nostra libertà. Faremo di meno, penseremo di meno, studieremo di meno. Per questo sono preoccupato che alcuni governi controllino i cittadini. Ecco. E non controllateli i cittadini. E infine dice anche questa roba qui sull'intelligenza artificiale, dice: le aziende devono fare in modo di ricollocare i lavoratori che verranno soppiantati all'utilizzo dei robot. Non è un problema se le macchine ragionano come gli uomini, ma se gli uomini ragionano come le macchine. E lui ha adottato un casino da Steve Jobs, questa capacità delle massime stile Baci Perugina, secondo me, che era quella. Era veramente la caratteristica di Steve Jobs, che appunto ha formato questo ampio settore di manager, costruiti su frasi che hanno un sapore veramente in qualche modo banale, ma nello stesso tempo funzionano un casino perché è una filosofia spicciola, per cui te la puoi rivendere che hai pensato sul mondo e sull'esistenza, però in effetti non è che hai avuto bisogno di approfondire tanto, perché comunque sono massime da Baci Perugina, cioè se la giocano bene. E lui appunto fa questa cosa. È molto interessante, ad esempio, non so se qualche studente gliel'ha chiesto, però io personalmente, se fossi stato un giovane studente, gliel'avrei chiesto, ho detto: ma perché, ad esempio, a lei le dà fastidio, che ne so, che la gente stia sempre appollaiata sui social, però non le fa specie, che ne so, che uno passi 2 giorni a dormire fuori da un Apple Store a fare la fila per venire a comprare una cosa pagandola magari 600 o 1000 dollari. No? E perché invece questa cosa che cosa avrebbe di pedagogico ed educativo? Non è comunque una strana distorsione della contemporaneità? Cioè, non lo so, io gliel'avrei chiesto, cioè, perché alcune cose gli fanno specie e altre sembrano fargli meno specie. Non lo so. Comunque, appunto, interessante il fatto che il CEO di Apple si è appunto preso sostanzialmente anche come una guida non spirituale politica, perché è molto meno mistico di quell'altro in qualche modo, però comunque una guida al comune buonsenso, no? Penso che piace un casino anche probabilmente quando l'hanno invitato, perché tira fuori delle cose abbastanza cioè, delle robe che uno le ragiona e dice: ah, vabbè, però rispetto a quegli altri, questi sono già un po' meglio. Poi, se uno guarda bene le affermazioni, c'hanno comunque dell'inquietante. Cioè, ora uno potrebbe anche parlare, che ne so, dell'immigrazione, no? Cioè, dire come azienda crediamo nell'immigrazione come risorsa. Cioè, se io sviscero questa frase, che cosa capisco? Sostanzialmente che l'immigrazione porta manodopera a basso costo. Cioè, io capisco questo. E quindi che vengano a lavorare, perché abbiamo la manodopera che costa meno, cioè secondo il meccanismo della concorrenza, no? Cioè, se noi pigliamo i disperati, quelli non li si sindacalizzano e poi tendenzialmente accettano un trattamento che sarà senz'altro umano, quello della Apple, perché sono brave persone, per carità. Però comunque, cioè, si saltano un sacco di problemi in questo modo. Cioè, non era un'affermazione particolarmente, come dire, da un punto di vista anche dell'azienda, uno non è che si stupisce tanto, probabilmente anche le aziende del nord-est hanno questo doppio livello, no? Cioè, fino a che venivano del nord-est nostro italiano, che è patria della Lega, no? E quindi, però allora era tendenzialmente, cioè, l'immigrazione che poi si traduce nella manodopera a basso costo, anche se ci fa un po' schifo, però ci va tendenzialmente bene. E anche che i paesi ricchi hanno responsabilità di aiutare chi fugge da situazioni in difficoltà, va bene, è un'affermazione completamente astorica, sostanzialmente, perché uno dovrebbe dire: ma i paesi ricchi che responsabilità hanno nell'aver creato le situazioni di difficoltà? E questa è la domanda, no? Perché un po' ce ne sono, cioè, se no uno si dimentica la storia e dice: gli dobbiamo dare una mano, però è uno sforzo da dama di carità. Cioè, boh, non c'hanno il pane, diamogli le brioche a questi. E vabbè. Comunque, insomma, è molto bello sostanzialmente che i nuovi guru del nostro tempo siano questi imprenditori illuminati, e che ci aspettiamo perle di saggezza da loro. A un certo punto, in un'altra intervista, in un altro pezzo che ha riportato da altri giornali, lui parlava anche di diritti umani e diceva: siamo per i diritti umani perché sono un imperativo morale. E in questo citava Kant, quindi ha delle probabilmente delle basi, oppure a caso, non lo so, però tendenzialmente, cioè, non, diciamo, non brilla per originalità. È bello che comunque, cioè, impersona bene quello che un adulto vorrebbe dire ai giovani, e questo mi. Cioè, un adulto classe media, cosa vorrebbe dire ai propri giovani? Non state tutto il giorno sui social network, diventate Mozart. No, inseguite i sogni. Va dove ti porta il cuore. Queste cose qua. Se poi finisci, che ne so, che devi tirare a campà facendo il rider in bicicletta. Succede, non è che. Però tu va dove ti porta il cuore. Vai, pedala. E questo è quanto. E niente, posso chiudere qua per questa sera. Volevo solo appunto resocontarvi che è successa questa cosa, visto che è accaduta qua a Firenze, no? Forse è successa anche in altre parti d'Italia. Non so se questo avevamo l'esclusiva italiana, non credo. Sarà in giro, gira, incontra gente, fa cose. È importante questa roba. Sì. Un'altra cosa che ad esempio mi sono sempre chiesto è come mai, cioè, queste aziende tendenzialmente preoccupate di produrre tutto con energia 100% rinnovabile, che non si capisce che cazzo vuol dire, cioè per 100, cioè, tutti i pezzi li fai da una parte, li mandi dall'altra, no? Per fare arrivare le cose da dove le fai e le vendi negli Apple Store, come ci arrivano queste? Sull'asinello? Cioè, cosa vuol dire? Cioè, non le mandi in aereo, non viaggiano su camion, tutta quella roba lì è tutta rinnovabile. Vabbè, e comunque, vabbè, basta, mi fermo perché poi sennò mi incupisco, divento cupo e triste. Vi faccio sentire invece un altro po' di musica, che è anche quella che chiuderà la puntata, e vi do appuntamento vabbè, sabato 12, se venite a fare lo script bash con noi, manipolo di gente stramba, oppure a mercoledì prossimo. No, però prima c'è anche la puntata, a meno che io non cambi giorno, perché potrei anche decidere all'improvviso che, ad esempio, la prossima settimana la mia diretta sarà il martedì alle 8. Che è una roba probabile, ve la do così, ma sarà così, improvvisa, non la saprete prima, cioè voi non mi troverete lunedì sera, ma tanto manco mi avrete cercato probabilmente, io apparirò il martedì alle 8 di sera, ecco, così, da un momento all'altro. E quindi buonanotte a tutte e a tutti, vi lascio con la musica come ho preannunciato e vado a bere un bicchiere d'acqua.